No, basta. Non farlo, non scriverlo, te ne prego. Doveva accadere laggiù che ti... Lo so che ti hanno presa a coltellate. Lo gridano i film crosta in moda, i fumetti Nick, i cromatismi acrilici. Nulla di più banale. Lo sanno i guardoni, da gradini, finestre, occhialoni. Io guardo freddo. Il freddo. Sai e non sai, vivi e non vivi, ma già dei sangui. Già scola da un'incisione sulla neve. Neve shocking, rosso shocking, mondo shocking. Ti sfasa, discrepa in diplopia. Temi la vera lingua dei dormienti, è un tuo tema. Rilutti all'ABC del conservarti tra il verbo geminato, il verbo quiescente, i verbi doppiamente infermi. Ma ora vengono alle mani, ora saltellano i coltelli nei luoghi comuni e ti incide. Non lo sentivo stando da questo livello, ora sei molti livelli. Mi chinavo a osservarti, alzavo il capo a osservarti e apprezzo un po' alla volta questo respiro migliore, rianimazione dell'affanno, questo rianimarsi di tutto in un singulto tuo, tre kip per rianimare o per animare disegni e coltellate orgasmi. Non sono io e sono, mi conosci? Stile impalatura, stile sfondamento, stile meraviglia. Mi hai accentuato nei miei pluri, fanta, meta, nei miei impegni, come? Carismatici, in empire univocità o latenze, in un sogno di inerranza, di inebriata inerranza. E io andavo come in tanti soliti, e abitudini per nevi e per selve, e sapessi il perché di questo mio non essere annoiabile. Eri laggiù, fuori combattimento, in pugna, eri vicina col vicus, villaggio, piccina, e lontana. Crollavi come una cascata nel lontano. Che stanchezza doverti ripetere sempre, sempre, peggio, peggio. Resterò dunque a guardare un pezzo di ramo su uno specchio ghiacciato. Io accosciato accanto a una pozza ghiacciata, ero qui e non attendevo. Non ho mai atteso nulla, veramente. Flash, crash, splash, down. Flash e splash, nella pozza, nello specchio. Introiezione della crash e splash, introiettata. È la prima tavola, la figurina di centrale. Io sto gustando i tuoi sangui, i tuoi essa milioni. Sì, tesoro, sì, tettine di lupa in sussulto. Mi va, mi sta, mi gira che laggiù ti abbiano colpita. Le mie non sono mai state abbastanza robuste. Non ti hanno mai buttata in causa. Non ti hanno mai inquisita né trasfigurata mai. Io piango. Ho saputo del fatto. Nemmeno cronaca nero cinema, fatto ordinario. Roba così di scarto, gratis data. Mentre stavo guardando, dopo pasto, dopo corpo, dopo. Avallato da eternità, avallato da tempi. Mentre stavo mettendo in sublime la laboriosa neve, l'intrinsecata di equilibri, induzioni, insegnamenti. So che lottavi col fantasma di tante beltà che mai verranno meno, Qui lotto col fantasma di una tu che vi si include con furore e fama, le porta avanti, le fa montare in pro, in contra. Ho saputo del tuo ferimento, ma tu ne sarai complice abbastanza? Ammetti che sei tu stessa una qualche forma di inflitta nelle cose, i fatti, le visioni, di punta. Ero il trauma in questo immenso corpo di bellezza. Corpo di bellezza è la selva in profumo d'autunno, in perdizione d'autunno, in lieve niveo, decliveo niveo, non più renitenza, stelle bacche, stille in cori, viola e rosso sul lago di neve. Oh, quanto ti sei somigliata oggi, quanto! Sei venuta dal niente, sei rimasta niente col niente, hai fatturato, azzeccato giorno, quanto ti sei giovata di nevi, soli, muschi, e sì, di querce, faggi, abeti, come di fanciole, ebuli, aneti, quanto ti ha giovato oggi il sole e il muschio che ho sparso davanti, e dopo i tuoi passi, dal niente, di niente, eri assiderata nella stilla, nella lente, nella bacca, dismissiete, butta lo slip, dispellati, datti fuoco alla nella pellicola e i coltelli. Ma i tuoi indugi e bausette, capogiri, dai dove però in? E non ho confuso il messaggio con un altro tutto, confuso nello shocking, non andare, vattene. Così avviene, sono sei, il duale, e in mezzo sei qua, sei là, due, uno qua, uno là, morra. No, io non mi sono ancora, no, Io non mi sono nata... No, io nudo, nudoso dei no, diamante di mai. No, io sono stata il glissato alato. No, io non ero la neve nella selva né il loro oltre. Eppure, a dispetto e nonostante. Quella volta, scendendo a rompifiato di sbieco dal colle, ho visto ruotare andar fuori campo il campo della beltà sotto la pioggia, cesure, in maniera particolare una maniera tua. E parestesie diffuse, diffuse per quel mona di mondo, per quel mosto di mondo, già ottobrato. Io volevo una volta venire all'ospedale per vedere il tuo bene arrivare e partire il tuo male. No, tu... Ah, sì. Oh, sì. Andiamo via con la testa. Divaghiamo un poco e anche un molto, se vuoi, sulla ferita e sulla dolce colla. Tra noi? Un miraggio di terapia eroica! 4 o 5 modi di pinzettare o di mettere graffe, suicidio, eccidio o eccidio fantasmatico, ovviamente progettato con un medico killer aiuto cancellatore, o la risorsa, essere acrobata, andar per sommi, o parlarci di poesia, preparare poesia, o rifarci in poesia, che guarda caso è strage, sopraffazione appena invetrinata, ecco l'arresto, alt, nella diapositiva è necrofilia, somma, necro, sommo, come te. Una broia in sospeso, là, un po' di scrostamento nel valore celeste. Marogna! Rifiuti di mamani incombusti, non asportati con sicumera, ti si disse, e sicurezza, dall'osservatorio di dolle, dissero i tuoi amanti, che ti spiano, te dentro i nihiloscopi, marogna, dove sprofonderanno, e non ha uva né magnetico né ossigeno. Sprofonderesti, certo, meglio... invetrinarsi, camuffarsi, immicrobirsi, olludismi, cromatismi, acrilismi, vertiginalmente. Sparati in faccia! E non essere mai se non se, con tutta infilata la serie, il campionario, il disponibile, l'oca, badessa, l'anatra contessa, il gallo, gastaldo, la gallina, gastaldina, a spiedino, trenino della felicità, gli agganci, mabbe, botto, masini e fate... Per arti e carmini insieme inquartati, principessa e guardiano di porci, principessa che sente i piselli sotto 1000 materassi pirelli. Aggiorna la conoscenza, Biancaneve, ho baciato e svestito dalla neve la bella, anestetizzata nel bosco la neve. Aggiorna la conoscenza, qualche mia variante. Mary Poppins nel museo delle cere e licor della cera. E paradigmi estremi e spostamenti, ablazioni intollerabili e inferimenti, non direi traumi più portati su me, sul femmineo femore e fi, portati sul futuro, sul corpo chiuso, sul plasma effuso del futuro. Io non ho infierimenti. Giungono, mamma, giungono. Ho fame, ho voglia, gratta, gratta e troverai, succhia, succhia e diverrai. Il bimbo lupo di Vetteravia, il primo bimbo orso di Lituania, la bimba scrofa di Salisburgo, il bimbo di Usanpur, il bimbo di Sultanpur, il bimbo di Bankipur, il bimbo lampo del Cansiglio, la bimbia pioggia della laguna. Smusano, annusano, grufolano, via, accelerare il nastro, la pellicola, il moto, il mito. Mamma, mamma, siamo in flu per le selve dietro a te, mentre brucia in Efeso il tuo santuario, è fatale il momento per le storie. Saltellano, si disperdono. Mi sto aggiornando con tanta fatica. La candela sgocciola sul mio, forse è temporale, è luglio, e aguzzo i sensi, i coltelli, i sangue. Polvere di cicale, polvere di neve nelle scatolette, polvere per seguirti su su, venirti alle costole. Sì, è vero, ero intento agli incerti, ai segni del tuo dissonnarti, entro la rete di gesti del ferimento. Mi avevi, non avevi rimedio, mi avevi tolto filtro e agogie, mi avevi insinuamenti, mangiamenti a falde, mi avevi, ero tutto un rogo di errori, ma un sacrore di morfemi e timbri, mi avevi, non senti che l'ho prodotto rifratto, trovato dovunque? La mia bella mano che già distrinse si... decontrae, giace sul lenzuolo, sul firmamento, tra mosche e ore in ronzio orbitale, istigazioni e semplicità. Ah, come ritorcersi verso un'altra castità, svischiarsi da niente a niente, tra due diversi niente, ma perché mi hanno ferita. Ho sentito bisbigliare, ho sentito sparlare, scommettere sul mio ferimento. Mi sento me esprimermi sul mio ferimento. Ho sentito parlare del tuo ferimento. In un nero film, in un trucco cromatico, in un blocco di cronaca. Qui, dentro l'erba, là fuori, nella neve che errava tra i boschi. Nel suo udito, da sotto il sasso, da dentro il sesso e... Voglio, sì, mondata. Realizzi? Cogli? Tutti giungono le mani. Vedi Beatrice con quanti beati, vedi la selva con quanti abeti. Giungono le mani, giungono le zampine, i pueriferi. Noi pueriferi mi congiungo, orando pro e contra sul tema del ferimento. E io, coltivandomi, gelo è il mio, tutto mio, coltivando quella per serre, favi e fabulei, filami e gemme nel gelo, e quanto in atto mi sono riaccostata, risarcita del mancamento, mancamento di mondo, di mio, di vostro, come al dato focale mi riaccosto. Giù nell'azzurro si ristora e posa, su nel profondo si adagia in più o meno compiuta, in novità, da una parte d'altra parte, da ogni parte fa bianco, fa oro, fa rosa. Sgusciare alle spalle dell'amore, toccare dietro ai suoi fondali, retroverso e poi circolare, circolare. Indica, si ritira, scompare, io m'indico, scompaio e pallore. Non c'è vetta più vetta del tuo essere stata forchiusa nel roveto, rovente forchiuso e non fu. E bisogna raccogliere sui vetri, riattare i pezzetti, riconnettere le infiltrazioni in filtro. Io ero un osservatore del freddo, sai? Del graffio colpo brivido nella stratigrafia nivea. Amavo tutto freddo nel freddo, in nuance d'affinità presunte elettive, tra ebuli e abeti che incorrevano in ricami. La mia ferita mi ha delibata, decifrata, mi ha accompagnata e piegata in profilo di confini, di fatti originari e confinari. La mia ferita è stata la mia sorte, la mia corte, il mio forte. Vivo sarò la tua peste, morto sarò la tua morte. Il sempre accoltellato in ira è in un fumetto in ic, ci sei? La mia crema, la mia ambrosia, la mia pappina di bario nel vasetto dove mi rimpolpo. La banchisa e il banco del gelataio, su cui piovevano foglie verdissime da un film, il cocito di battiti di ciglia. TV Cinema è la mia consolazione. Per TV Cinema l'animo nostro si innalza, come se da lui stesso fosse generato ciò che egli ha udito e visto. Sempre volto lo sguardo e l'occhio in collirio, si lacrima, i tuoi occhi colliri, ne tremo, i tuoi occhi colliri. L'occhio lacrima in fascino tutto il suo liquido interno, e quel che diresti sguardo è un eterno impuntarsi imperativamente, vilmente. Macinare, macinare, sparagnare, sparagnare, carezzare, carezzare, sassi, spine, braci. Sono buio tedesco, fui, sono smascellato dalle risa, sono tenero, innamorato, delicato, smentite varie, alzare, mirare bene. Ehi là, che c'è? Ehi te, in fondo al luogo. Anche se questo cincischio è senza luogo, come tutto il resto da troppo, troppi cattivi esempi. Ma che gemmai potrebbe sanar la mente illusa e trarre ad altra legge l'ostinato amator della sua musa? Di centrale. Prime approssimazioni a un lunghissimo e finalmente noiosissimo poema. Qui universo potrebbe essere il titolo e il via per un poema. Quanto è dolcemente conformato il tuo concedere. Ora ti adatti tutta, ora tutto con te si sdà vagamente profano, ora cominci, dormi tra con tutti. Ora ti dormi tutta, occhi, capelli, raggi, bocca e l'altre cose dolci che non si toccano, tutta quel tu che non si tocca. Il ricordo di quanto ho sudato e pagato, il ricordo di ciò che non sono mai stato, il rincorrersi ai là sei tu attraverso il déjà vu. Non liquideremo per sempre l'entusiasmo? E quello che non sarò mai e non voglio essere stata aboliremo, devieremo, non leggeremo più per i upsus. Ma tu hai questioni dirottamente, immaturamente, favolmente nell'entusiasmo. Qui si firma. Ma tu hai questioni dirottamente, immaturamente, favolmente nell'entusiasmo. Qui la firma. Io, tu o tutti, ho rapporto con queste terre, con questi sogni di ferite, di strappi, carne e dirotti, fabule in non mai maturi. Ma è un funerale, un matrimonio, un battesimo, un'avventura in sutura. Precedevamo staffette in macchinetta e trombetta, con scimmie e yin e yang e ping pong e arlecan e zanni e fogliuzze, granfitte e decibel ammazzi, questa imparità a freddo divulgante, forzamento a freddo di frangimento e calma a parità. Oh, bollo sui prati! Diana! Ah, Senal! Ora me ne andrò, me ne andremo sull'altro bordo della ferita, ma lascerò proiezioni di qua nel cristallo, nello stabilizzato, nell'infuga che è il mio respiro, sospiro. Povera cosa, quante povere cose. È così minima la refurtiva e poi subito persa. Sai, respiro, sospiro, dimenticavo, gemito oggi. Passo e chiudo. Grazie.